Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buongiorno, benvenuti, anzi buon pomeriggio, benvenuti. Sono le 16.33, Luca Tremolada. Oggi puntata dedicata agli smartphone, a Google, all'iPhone, insomma alla telefonia e a tutta la tecnologia che sta dentro ai telefonini. Ma ora le news. A 25 anni dalla sua nascita, Tetris è il gioco più venduto per cellulari. Acquistato da oltre 100 milioni di utenti e scaricabile in 60 nazioni, è compatibile con 64.000 modelli di cellulari e smartphone. Il videogioco dei mattoncini, creato dal programmatore sovietico Alexei Pajtnov nel 1984, è diventato popolare alla fine degli anni 80 grazie alla console portatile Game Boy. Riscaldamento climatico. La NASA sostiene che quello che si è concluso è stato il decennio più caldo da quando si è iniziato a registrare la temperatura. Il 2009 sarebbe quindi il secondo anno più caldo dopo il 2005, dal 1880, mentre il 2008 è stato quello più freddo del decennio a causa della corrente La Nina, che ha abbassato le temperature dell'area tropicale del Pacifico. Quasi caldi come il 2009 sono stati il 1998, il 2002, il 2003, il 2006 e il 2007. Occhio al social networking. Un sondaggio di RSA rivela poca fiducia nel web 2.0 a causa dell'aumento dei crimini online. Anche se sono centinaia di migliaia le persone che si iscrivono a siti di social networking ogni giorno, circa il 65% degli intervistati sono poco propensi a condividere informazioni con altri a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza. La Cina ha replicato oggi alle critiche statunitensi su libertà di internet e intrusioni di hacker, ammonendo che le relazioni fra i due colossi della scena globale sono state danneggiate da una controversia che riguarda il gigante del web, Google. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha sollevato una polemica con Pechino sulla politica informatica, dopo che Google la settimana scorsa ha minacciato di ritirarsi dalla Cina, dopo aver lamentato episodi di intrusione di hacker e di censura. Insomma, Google è un tormentone, un continuo. Noi abbiamo qui Giorgia Longoni, direttrice marketing di Google. Siamo riusciti a portare qui qualcuno anche per cercare di capire, insomma, il momento che sta passando l'azienda. C'è la crisi con la Cina, c'è il Nexus One che sta per arrivare in Italia. Quando è che arriverà all'incirca? Quanto possiamo immaginarci che sbarcherà? Dovrebbe arrivare in Europa in primavera. Per cui, insomma, tra qualche mese, tra pochi giorni, verrà presentato a San Francisco il nuovo tablet della Apple, che insomma si preannuncia un'altra rivoluzione. Ieri Nokia ha lanciato le mappe gratis, per cui un modo per navigare sui telefonini assolutamente free. Si parla anche di un accordo tra Microsoft e la stessa Apple per ospitare il motore di ricerca Bing dentro ai telefonini iPhone. Insomma, si stanno un po' tutti muovendo, voi forse perché state arrivando voi nel mondo della telefonia, non lo so, che dice? Ma sicuramente aggiunge, diciamo, un elemento di innovazione, quindi competizione, che è sempre comunque positivo, no? Quindi, Quindi vediamo però adesso, chiediamo innanzitutto ai nostri ascoltatori di chiamarci 824-0024, attenzione, abbiamo qui Google, per cui qualche domanda ci sarà, 349-238-6666 gli sms, ma vediamo ora che cos'è Nexus One. È più potente dell'iPhone, più sottile e più leggero, eppure ha fatto una partenza in salita sul mercato. Strano il destino del Nexus One, il primo cellulare di Google. Per ora è disponibile solo negli Stati Uniti, dove ha venduto appena 20.000 unità nella prima settimana dal lancio. Per un confronto, l'iPhone ne ha vendute 1,6 milioni, a parità di tempo. Sui giornali americani è rimbalzata una polemica, inoltre, subito dopo il lancio. Tanti neo acquirenti del Nexus One avevano problemi tecnici e non sapevano a chi rivolgersi, perché Google non aveva attivato un call center. È un ingresso difficile, insomma, in un mercato nuovo per il gigante del web. I prossimi mesi diranno se saprà mettersi alla pari con concorrenti più stagionati nel mercato mobile. Il prodotto di per sé ha buone carte. Uno dei processori più potenti per cellulari, lo Snapdragon a 1 GHz, molta memoria, uno schermo touch con risoluzione superiore a quella dell'iPhone. Il tutto a $529 negli Stati Uniti, quindi un po' meno caro dell'iPhone. In Italia dovrebbe arrivare nei prossimi mesi con l'operatore Vodafone e chissà che accoglienza troverà. Ma perché a Google è venuta di colpo la voglia di fare un cellulare? Probabilmente per diffondere meglio i propri servizi e la pubblicità dei suoi sponsor, anche in mobilità. La scheda era di Alessandro Longo, un po' cattivella, però insomma la domanda c'è. Perché siete voluti entrare anche in un... Avevate il web, avete i motori di ricerca. Perché i telefonini? Perché la gente usa i telefonini. Di conseguenza... Come vuole trovare alcuni servizi su web, li vuole trovare ovviamente anche su telefonini, che sono sempre più evoluti come oggetti. Quindi diciamo che il Nexus One, oltre ad essere un oggetto bellissimo, perché è veramente molto elegante, quindi se qualcuno come me ama così il design... Voi l'avete già visto, immagino. Sì, lo possediamo. Lo possedete già, per cui avete già l'anteprima in mano. Noi l'abbiamo visto qui in studio, per cui non vi diciamo nulla, ma che impressione ha avuto? Beh, appunto, a parte l'estetica, che è chiaramente interessante anche proprio dal punto di vista dell'utilizzo, no? Quindi c'è uno schermo grande, 3,7 pollici, ad altissima definizione, il fatto che comunque sia molto veloce nell'interazione. Però diciamo che quello che veramente incarna un po' l'essenza di questo telefono è il fatto che è il telefono per chi ama Google. In effetti integra nel modo più facile possibile tutti i prodotti principali di Google. Quindi c'è la possibilità di utilizzare le mappe in un modo molto evoluto, con un navigatore vocale. Ecco, voi vi rendete conto che insomma state andando a pestare i piedi a uno dei personaggi forse il più visionario del mondo dell'elettronica di consumo, che è Steve Jobs, con un prodotto come iPhone. Io prima di venire in onda sono andato su YouTube, roba vostra, ho guardato iPhone e Nexus One, sono arrivati più di 200 video con parodie straordinarie, perché insomma questo confronto è atteso. Addirittura ci si divide un po' tra quelli dell'iPhone e quelli che invece guardano le tecnologie, guardano il web. Voi la vivete come? La vivete un po' come il don't be evil, non vogliamo essere cattivi, però insomma siamo qui, siamo Android, siamo un qualche cosa che entra tutti gli oggetti, non siamo un produttore di elettronica di consumo, oppure la vivete come una sfida? Ma più che una sfida è un'opportunità per le persone che a questo punto hanno la possibilità di scegliere, oltre a un bellissimo oggetto che è l'iPhone, anche un altro bellissimo oggetto che è il Nexus One. Quindi non credo che Steve Jobs voglia il monopolio sulla possibilità di produrre dei bei telefoni con comunque delle applicazioni integrate in modo intelligente. Tra l'altro Android stesso è un sistema aperto, di conseguenza chiunque produca telefoni, chiunque produca applicazioni lo può utilizzare, quindi non è un'alternativa, un out, è una possibilità in più. Ecco, il tema è proprio Android, nel senso che noi abbiamo invitato Nicola Ferrioli, CEO fondatore di iBruno, ok, che poi io c'ho pure la R, per cui puoi immaginare, c'è un nome così strano, no, non ha la R, iBruno, esatto, l'ho vista R, io, okay, perché le vedo ovunque. Allora, che insomma di mestiere fa lo sviluppatore, esatto. Perché cosa sta sviluppando adesso? In questo momento principalmente per iPhone, perché ho iniziato ad aprile dell'anno scorso. Qualche mese fa c'era iPhone e l'App Store, che era una realtà consolidata, e una grande promessa che era Android. Android avevo già iniziato a guardarlo in precedenza, perché in realtà nel mio passato ho lavorato anche per Google Italia. Però diciamo fino a qualche mese fa c'era la scelta tra il nuovo che stava arrivando e una realtà consolidata. Che differenze c'è? Che differenze vedi tra i due sistemi e che tipo di applicazione ti appresterai a fare o si apprestano a fare per Android? Perché poi il mondo delle applicazioni, di fatto, a mio parere, noi l'abbiamo più volte scritto su Nova, è quello che decide il successo, è quello che deciderà sempre di più il successo di un telefonino. Sì, diciamo che sicuramente ho osservato il mercato negli ultimi mesi ed è venuto il momento di cominciare a pensare più seriamente ad Android, perché sono arrivati nuovi terminali, lo store comincia a funzionare, quindi è il momento di operare su entrambi. Copierai il modello iPhone, e li porterai, cioè farai sostanzialmente le cose che fai per l'iPhone, le proponi a anche Android, oppure ci sarà un tema di diversificazione, vi inventate qualcosa di nuovo, altrimenti... No, certo, coesistono entrambi gli scenari, nel senso è possibile prendere applicazioni preesistenti e portarle quasi pari pari con Android, su Android, purtroppo a un costo che non è così basso perché tutte le API sono diverse, la tecnologia è diversa, quindi richiede parecchio tempo di sviluppo per passare su Android. Esiste anche la possibilità invece di fare qualcosa di nuovo che sfrutti la piattaforma. In particolare su Android c'è un'integrazione migliore con la parte di telefonia vera e propria del sistema. Ovvero, questo che cosa significa? Che cosa dobbiamo aspettarci? Diciamo che su iPhone esiste una grande libertà di interagire con la parte di trasmissioni dati, con server, protocolli di rete, mentre c'è una specie di grossa barriera verso quello che è proprio la telefonia tradizionale. Un esempio, se io da iPhone voglio mandare un SMS da un'applicazione verso un sistema che lo deve processare, è molto complesso, se non quasi impossibile, devo passare da un server intermedio. L'integrazione con Android è molto più aperta in questo campo, che questo può dare più possibilità di realizzare nuove applicazioni che sono eccessivamente complesse da fare con iPhone. D'altro canto può anche creare più problemi a livello di spam, sostanzialmente applicazioni che possono accedere alla parte sulla di telefonia. La parte economica, che cosa ti aspetti? Cioè, secondo te si ingaggerà una sfida tra i due? No, penso... sarete sottoposti al gioco di... Diciamo che la sfida è già presente separatamente in ognuno dei due store, nel senso che sull'Apple Store c'è una forte pressione verso il basso dei prezzi, per cui le applicazioni gratuite si vendono a migliaia molto semplicemente, le applicazioni a pagamento sono quasi tutte allineate in basso. Una domanda al volo a Google che è arrivata da un SMS. Antonio chiede se c'è una forte interesse verso il mondo dei non vedenti, cioè il fatto che vi sia questa feature, questa applicazione. Sì, questa è una delle sfide che vogliamo raccogliere con questo telefono. Esiste già la possibilità, quello che noi chiamiamo voice recognition, ovvero la possibilità di dettare al telefono dei comandi. In questo momento funziona per la ricerca, quindi se io voglio fare una ricerca su Google posso parlare con il mio telefono. Esistono anche altre possibilità, quindi apri il calendario. Ovviamente è una fase embrionale, però questa è la strada che vogliamo seguire perché è decisamente una delle più interessanti. Nova Lab 24. Eccoci ritornati, noi siamo in collegamento con Carolina Milanese, capo della ricerca di Gartner. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, anzi giustamente buon pomeriggio. Sentiamo, perché insomma questi due oggetti, Nexus One e iPhone, stanno all'interno di una scatola. Questa scatola si chiama smartphone. Vediamo di capire i termini di questo mercato. La gallina dalle uova d'oro dell'industria dei cellulari in questi anni difficili si chiama smartphone. Sono cellulari intelligenti dotati di un sistema operativo che permette all'utente di espanderli con applicazioni. Sono quasi dei computer, insomma, e rispetto ai PC hanno anche qualche funzione evoluta in più. Per esempio, le mappe con sistemi satellitari GPS. In Europa occidentale le vendite dei cellulari sono calate del 22%, secondo Pyramid Research. Ma quelle dei soli smartphone sono aumentate del 21%. Significa che una massa crescente di utenti vuole fare molte più cose con i propri cellulari, non solo telefonare. Per questo motivo compra uno smartphone. Ormai ci sono modelli disponibili anche sotto i 200 euro, ma per avere le funzioni più sofisticate bisogna spenderne dai 400 in su, in genere. È questo il mercato febbrile e agguerrito in cui entra Google. Sfida difficile. Il leader è ora Nokia, con il 40% di quota, secondo Canalys, seguita da RIM, che è l'azienda dei BlackBerry, e dall'iPhone di Apple. I cellulari Android, cioè il sistema operativo Google, hanno ottenuto soltanto il 3% di quota fino ad ora. Sono con Android alcuni modelli di Motorola e Samsung, tra gli altri. Forse anche per rimediare a questa partenza lenta di Android, Google ha deciso di scendere in campo in prima persona con un proprio cellulare, il Nexus One. Ecco, Carolina Milanesi, come si colloca il Nexus One e ha senso come si colloca nel mercato e soprattutto ha senso parlare di smartphone? Ha senso paragonare Nexus One a iPhone, a RIM? Ma io ero partita in quarta prima della scheda tecnica perché è un argomento che mi sta molto a cuore. Prima di tutto perché secondo me ultimamente usiamo la parola smartphone troppo. e creiamo confusione per il consumatore finale. Ci sono storicamente la parola smartphone si riferisce a un device che ha un sistema operativo aperto, come diceva prima la, la persona in studio di Google. Android è un sistema operativo open source che quindi tutti possono usare. Sistema operativo aperto vuol dire anche aperto agli sviluppatori, con quindi le API che vengono utilizzate per le applicazioni. Però ci sono anche dei telefonini che sono capaci e hanno lo stesso set di features e che quindi hanno uno schermo bello, la tecnologia touch e via dicendo, che però non hanno l'apertura dal punto di vista della piattaforma che ti permette oggi di avere tutte le applicazioni che puoi avere con un iPhone o con un Android o anche con un sistema operativo Symbian. Questa quindi sarà, la chiave è quella, esatto, la chiave quindi saranno due sistemi diversi, cioè i sistemi aperti e i sistemi chiusi sostanzialmente. Sì, i sistemi proprietari, i sistemi aperti, e il vantaggio dei sistemi aperti è l'ecosistema che tu vieni a trovarti con le applicazioni e i servizi che l'utente può beneficiare e arricchire molto di più l'esperienza col telefonino. Che idea ti sei fatta di Nexus One? I forum non sono subissati di proteste, insomma è un prodotto che è partito un po' in salita, ma aspettiamo di vederlo in Italia. Secondo me, come dicevate all'inizio, dal punto di vista dell'hardware non c'è assolutamente nulla di negativo da commentare, è uno tra i device più interessanti che ci sono al momento sul mercato. Quello che rimane un grosso punto di domanda è come una compagnia come Google si trasformerà per avere un discorso di customer care. Non hanno mai fatto customer care per qualcosa che l'utente paga $500. Come verranno anche a svilupparsi le dinamiche in un mercato americano che è strettamente controllato dagli operatori mobili, e adesso Google si mette tra l'utente e l'operatore mobile. Questa è una cosa che anche Apple non ha neanche considerato. Assolutamente, è vero. È verissimo, è verissimo. Proviamo a una risposta brevissima perché siamo in chiusura, cioè riuscirete a fare questo nuovo mestiere? È un nuovo mestiere, sì. Sì, è sicuramente una nuova sfida. Comunque, per quanto riguarda l'assistenza, in realtà esiste un'assistenza online, esiste un sito che dà la possibilità di capire come risolvere tutti i problemi maggiori che si possono presentare, quindi domande frequenti, e si può anche mandare un'email a cui rispondiamo, diamo garanzia di rispondere entro 48 ore. Forse non basterà un sito questa volta. Vedremo. Io vi saluto, l'appuntamento è per lunedì sempre alle 16:30, cambieremo completamente argomento, neuroscienza, insomma vedrete.